GR24, il sole 24 ore. A 20 anni dalla morte di Borsellino, Napolitano, verità sulle stragi, no a sovrapposizione nelle indagini. Rossella Urru liberata in Mali, il Quirinale, sollievo e gioia. La Spagna sull'orlo del default, non possiamo pagare i servizi, dice il governo. Siria, gli insorti verso la TV di Stato. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. In primo piano le parole del presidente Giorgio Napolitano a 20 anni dalla strage di Via D'Amelio, dove perse la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Ci colleghiamo subito in diretta con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Tanti messaggi da tutto l'arco istituzionale. Partiamo dal Quirinale. Il presidente della Repubblica Napolitano invita ad arrivare alla verità a tutti i costi su quanto accaduto in Via D'Amelio, di fatto mandanti autori della strage e depistaggi successivi. Si deve giungere, spiega il capo dello Stato, alla definizione dell'autentica verità su quell'orribile crimine che costò la vita a un grande magistrato, protagonista con Giovanni Falcone di svolte decisive per la lotta contro la mafia. Napolitano punta quindi il dito contro la cosiddetta trattativa tra pezzi delle istituzioni e boss mafiosi. Non c'è alcuna ragione di Stato, dice il Presidente della Repubblica, riprendendo le parole del Presidente del Consiglio Monti, che possa giustificare ritardi nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità, ritardi e incertezze nella ricerca della verità, specie su torbide ipotesi di trattativa tra Stato e mafia. Napolitano, rivolgendosi quindi alla vedova Borsellino, definisce imperativo arrivare alla verità, anche per dovere verso i familiari del giudice ucciso e verso gli uomini della scorta che morirono con Borsellino. Detto del Premier Monti, a ricordare Via D'Amelio sono tutte le forze politiche, i presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani. Per quest'ultimo, con Borsellino il popolo siciliano ha iniziato ad avere la consapevolezza che la criminalità organizzata, di fronte alla quale fino ad allora si era sentito passivo, non fosse invincibile. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E in tutta Italia si ricorda oggi proprio il sacrificio di Borsellino. A 20 anni esatti dalla strage, Palermo oggi ricorda il sacrificio di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Presidio fisso per le iniziative della società civile dalle 8 di questa mattina in Via D'Amelio, dove un albero d'ulivo raccoglie i messaggi e le testimonianze di solidarietà portate negli anni. Per volontà dei familiari, quel luogo non deve essere meta di rappresentanti delle istituzioni venuti a portare corone di fiori. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, partecipa alle commemorazioni, ma in forma privata. L'ANM ha ricordato il giudice con un incontro aperto nell'aula magna del Palazzo di Giustizia. Le istituzioni si impegnino per accertare la verità, ha detto il presidente della Giunta distrettuale di Palermo, Nino Di Matteo. Gli ha fatto eco Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso. Io pretendo verità e giustizia, perché Paolo è stato ucciso troppe volte e io non permetterò che Paolo venga ucciso un'altra volta. Palermo, la speranza, la giustizia, la verità devono vivere ed è compito di ognuno di noi. Alle 16.58 in Via D'Amelio il momento clou delle commemorazioni, un minuto di silenzio, poi gli interventi dei familiari. Alle 18.30 all'orazione civile alla biblioteca comunale intitolata al magistrato e in serata la fiaccolata per le vie della città. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore. E oggi alle 13.30 Italia Incontro Luce sarà interamente dedicata all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Dovrebbe rientrare nel pomeriggio a Roma Rossella Urru, la cooperante italiana liberata dopo 9 mesi di prigionia in Mali insieme a 2 colleghi spagnoli nelle mani di un gruppo legato ad Al-Qaeda. Già da ieri i genitori la stanno aspettando a Roma, dove Rossella Urru dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio all'aeroporto militare di Ciampino. La cooperante sarda è stata rilasciata ieri in Mali dopo 270 giorni di prigionia dal gruppo vicino ad Al-Qaeda che l'aveva sequestrata in Algeria. Con lei sono stati liberati anche 2 ostaggi spagnoli. I 3 oggi dovrebbero spostarsi dal Mali al Burkina Faso per poi tornare in patria. Il trasferimento in programma ieri era poi saltato per una tempesta di sabbia. Rossella sta sicuramente bene, ha fatto sapere stamattina il ministro degli esteri Terzi. Nessuna conferma invece dalla Farnesina sulle voci del pagamento di un riscatto. Notizie non confermate parlano di 30 milioni di dollari, 10 per ostaggio. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma. E proprio in questi istanti è uscita l'agenzia che Rossella Urru e gli altri 2 cooperanti spagnoli liberati ieri nel nord del Mali sono arrivati sani e salvi nel Burkina Faso. Lo ha confermato la France Press, un membro del team di mediatori del Burkina. E intanto nel paese di Rossella Urru è in corso la festa per la sua liberazione. A Samugheo, il paese di origine di Rossella Urru, la festa è andata avanti fino a notte inoltrata. Dopo voci e smentite, a dare la conferma della liberazione a tutto il paese che in questi lunghi mesi si è stretto intorno alla famiglia, è stato il parroco Don Alessandro Floris. Ho detto posso suonare le campane a festa. Il primo gesto è stato quello di suonare le campane, segno appunto liberatorio, quindi la comunità ha capito che la notizia era appunto vera. E ciò che ci ha tenuto unito come paese è stato soprattutto il momento della preghiera che io tenevo ogni settimana appunto per 9 mesi. Nella cittadina a pochi chilometri da Oristano si è ballato in piazza per molte ore, i clacson non hanno smesso di suonare. Mario Sulis è lo zio di Rossella. Un carosello di macchine, di moto, di biciclette, come quando abbiamo vinto il mondiale, insomma. Tutto il paese era mobilitato, anche gente di fuori. Ora sulla facciata del comune lo striscione che dal 23 ottobre chiedeva la liberazione della cooperante è stato sostituito da uno nuovo che annuncia Rossella liberata. Lo zio Mario non esclude che la trentenne innamorata dell'Africa e del suo lavoro possa in futuro farvi ritorno. Questo lo deciderà solo lei. Dal modo che la conosco io potrebbe anche ritornare lì. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giunta poco fa la notizia che è composta in tutto da 6 articoli, la bozza di decreto dell'economista Giavazzi con la quale il governo punta a tagliare e riordinare gli incentivi alle imprese. Stiamo parlando della spending review. L'articolo 3 esclude dal taglio gli incentivi giustificati e tra questi le norme finanziabili con fondi UE e quelli legati a istruzione, ricerca e sanità. La Spagna ha venduto bond con scadenza 2014-2017-2019 per 2,98 miliardi, poco sotto l'obiettivo di 3 miliardi, con tassi in deciso rialzo e domande in calo. Il rendimento medio del biennale è balzato al 5,20 dal 4,33 di giugno, quello del 5 anni è dal 6,45 al 6,45 dal 6,07, mentre il tasso sulla scadenza 2019 si è attestato al 6,7%. Non abbiamo un soldo in cassa per pagare i servizi pubblici. Se la BCE non avesse comprato i titoli di Stato, il paese sarebbe fallito, ha detto il ministro del bilancio Cristobal Montero in Parlamento. Nel 2012 la pressione fiscale effettiva o legale in Italia, quella che è mediamente sopportata da un euro di prodotto legalmente e totalmente dichiarato, è del 55%. Lo rivela l'ufficio studi di Confcommercio, secondo il quale è un record mondiale e che la pressione fiscale apparente è al 45,2%. Proseguono i rincari sulla rete dei carburanti. Il market leader Eni, secondo Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana, ritocca di un centesimo il prezzo del diesel. Si tratta del 6° aumento nel mese di luglio, più 5,9 cent contro i più 7 a livello internazionale. Nuovi rincari anche per Tamoil, IP, Shell ed Esso, con variazioni a rialzo comprese fra 0,4 e 1 cent per la benzina e 0,5 e 1,1 cent per il diesel. Ed ora un aggiornamento dai mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'appuntamento importante della giornata l'avete citato, il collocamento sul mercato di obbligazioni spagnole che hanno segnato tassi netto rialzo, mentre in totale controtendenza è andata l'asta del tesoro francese che ha collocato quasi 9 miliardi di euro di titoli questa mattina su diverse scadenze, con rendimenti invece in forte ribasso, a riprova che il debito francese viene considerato alla stregua di quello tedesco, cioè altamente sicuro. Sulla scia dell'esito dell'asta spagnola, il mercato ha vissuto una metà mattinata un po' nervosa e poi adesso gli indici hanno ripreso tutti quanti a salire. Guardano le buone trimestrali che stanno arrivando dagli Stati Uniti. Parigi è in rialzo dello 0,7%, Francoforte è in rialzo di un punto, Londra più timida, più 0,34%, Milano più 0,45%. Milano per una parte della mattinata ha perso anche mezzo punto percentuale. Stanno ritornando gli acquisti su tutte le banche, il Banco Popolare segna più 3,54, Unicredit più 2,74, bene tutta la galassia Fiat, bene Buzzi Unicem più 2,33%, nel settore bancario segnaliamo UbiBanca più 2,16% che ha comunicato un maxi piano di riorganizzazione che porterà risparmi per 115 milioni di euro, ma anche il taglio di 1.500 posti di lavoro. In grossa difficoltà invece oggi il titolo Telecom che perde 5 punti perché l'autorità brasiliana di vigilanza sulle telecomunicazioni ha bloccato la vendita di nuovi contratti telefonici in alcuni stati per 3 operatori, fra i quali proprio TIM Brasile. L'euro sul dollaro è 1,2296, lo spread fra BTP e Bund a 476 punti base. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Andiamo sempre all'estero. Il giorno dopo l'attentato anti-israeliano in Bulgaria si chiarisce la dinamica dell'attacco e Tel Aviv apre la caccia ai responsabili. Un kamikaze che aveva con sé una patente statunitense falsa, grazie alla quale è riuscito a salire su uno dei pullman dei turisti israeliani appena arrivati all'aeroporto di Burgas. Questa è la dinamica dell'attentato, secondo quanto ricostruito dal ministro bulgaro dell'interno Zvetan Zvetanov. 8 morti il bilancio dell'attacco, 6 israeliani, un bulgaro e lo stesso attentatore suicida, 31 i feriti. Israele accusa l'Iran e preannuncia una reazione dura e decisa. Il portavoce del governo israeliano, Avi Patzner. Ci sarà una risposta israeliana. Non lasceremo passare l'assassinato dei civili innocenti. Per mesi e mesi e mesi adesso la comunità internazionale parla con l'Iran. Non ci sono nessun risultati. L'Iran continua a organizzare degli atti terroristici in tutto il mondo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Siria si stringe il cerchio intorno a Bashar al-Assad e gli uomini più vicini al presidente. Intanto sono ripresi gli scontri. Centinaia di persone stanno fuggendo da Damasco, dove oggi sono ripresi violenti combattimenti all'indomani dell'attentato al quartier generale dei servizi di sicurezza del regime, che ha causato la morte di 3 alti dirigenti. Dopo il massacro di ieri, con oltre 200 vittime nel paese, nella notte altre 13 persone sono morte, secondo i comitati locali di coordinamento dell'opposizione. Il centro della città è presidiato da mezzi blindati. Gli scontri hanno lambito anche il quartier generale del governo del presidente al-Assad e almeno una persona è morta nel quartiere di Ikhlas, non lontano dal Ministero degli Esteri e dal campus universitario. Ma un bombardamento ha colpito anche un funerale nel sobborgo vicino al mausoleo sciita di Zainab e lì il numero delle vittime potrebbe essere alto. Gli insorti si preparano ora ad attaccare la sede della TV di Stato e mentre continuano le diserzioni nelle file dell'esercito regolare, il presidente siriano si sarebbe spostato nella città di Latakia e sua moglie sarebbe fuggita in Russia. Intanto a New York è stallo diplomatico con il rinvio a domani dell'atteso voto in Consiglio di sicurezza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Appalti pubblici truccati nei comuni modenesi di Castelfranco Emilia e di Carpi. La polizia ha eseguito 3 arresti per casi di corruzione che hanno visto coinvolti responsabili e operatori degli uffici tecnici dei 2 comuni. Altre 8 le persone sottoposte a misure interdittive. Un allevatore mantovano di suini che cibava gli animali con rifiuti speciali, cioè scarti di produzione alimentare, è stato denunciato insieme al proprietario di 2 ditte alimentari in provincia di Mantova e Parma, che gli vendeva gli scarti dati ai maiali invece di essere smaltiti in impianti di biogas. Ed è tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia Roberto Scaltritti, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.